23. Dai, era ora. Buonasera, tutti morti. Signor Gio Marì. E allora? E allora? Ero fuori. Ah, per quello, io ho compito guardando così. A guardare. E basta, sai cosa vuoi fare? Sì. Già siamo burugenze, ma maggiore Italia, io sempre la vasca. A me mi hanno avvisato ieri sera, per cui ieri notte l'ho riempita la vasca da bagno. Se n'è andata tardi, però se n'è andata stamattina, anche alle 10 qualcosa c'era ancora, dopo siamo usciti. Siamo rientrati verso le 4 e non c'era ancora l'acqua. Noi è mancata stasera, dalle 4 e mezza in su è mancata da qua. Infatti mi ho riempito la vasca, ho riempito io. Io ripeto, quando siamo usciti alle 10 qualcosa c'era l'acqua. Poi non so a che ora è mancata o no, capito? Ripeto, siamo usciti lì, c'è qualche cosa e siamo rientrati stasera alle 4 e non c'era più l'acqua, capito? Ma ci avevano avvisato ieri sera che mancava l'acqua, capito? Che abbiamo provveduto a riempire almeno la vasca da bagno. E io ho letto il messaggio nel telefonino, quindi... Poi si è riempito la vasca, ho riempito la vasca, era fine e ho riempito la vasca. Se non me ne avviso, se ci vuole, decimi. Ma infatti quando qua capita così, che ci sanno. Una volta che uno lo sa, prevede magari, capito? Ma se uno lo sa è un macello, capito? Così che a noi ce l'ha detto mia nuora ieri sera, penso che l'ha letto sul telefono. Che mancava l'acqua, l'abbiamo provveduto e grazie a Dio ce l'abbiamo, meno male. Ma senz'altro verrà stanotte, dai. No, dice che manca da stasera, mancava da stasera fino all'indomani. Da qui qua, comunque già è piena, già ce l'abbiamo, l'importante è che ce l'abbiamo un po', dai. Infatti. L'importante è quello, ce l'abbiamo, almeno per i gabinetti, lavarci le mani già ce l'abbiamo, la faccio. Se manca l'acqua, ragazzi, come fai? Non è possibile. Anzi, specialmente in famiglia grande, ragazzi, come fai senza acqua? Non è possibile. Io, a 3 anni che mancava, avevo i bidoni, scendiamo in campagna e me la portavo da campagna l'acqua, capito? E fatto. Infatti, già sapete che cucì, Giulia. Così, abbiamo fatto già, abbiamo provveduto e già ce l'abbiamo, va. Così che siamo tranquille. Vediamo per sentirci alla Bacchisio. Bacchi! Buonasera. Buonasera anche a lì. Marco. Oggi meno male che dopo il diluvio di ieri, oggi era una giornata tranquilla, dai. E stranamente ieri che c'era cattivo tempo c'era una propagazione incredibile, infatti con Antonello sul 22 ci siamo divertiti, ma non a fare collegamenti così corretti, anche scherzando, dicendo fesserie, e quelli che ci rispondevano, guarda una scena ieri. Ieri infatti c'era molta propagazione, ma c'era già molto che non finiva più, Troppo già molto c'era, e per cui ho visto che siete passati su 22 con Antonello e stavate parlando, era di meno lì quel rem, va? Ma la propagazione, caspita, c'erano tedeschi, c'erano inglesi, è entrato uno dalla Svizzera, uno dall'Olanda, una scena, guarda. Ma in tutti i canali era così, in FM soprattutto e anche in banda laterale per i come si chiamano i portoghesi, solo che quelli che li capisce è bravo me. Ehi, non è che già se ne capisco, è un po', dai, non è che sia come le altre nazioni, capito? Tra la Francia e la Spagna e cose, il Portogallo si capisce qualche frase, dai, non è così difficile. E il catalano, la maggior parte, è vero o no? Infatti. Ah, ieri c'era Gianni, doppio RU. Entravano questi, ma fortimi, 9.5, 9.10. Altro che se ci sentivano. Ma lo sai che certi arrivavano a 9.15? Hanno raggiunto segnali 9.15 e certe volte anche hanno sfiorato il 9.20. Roba da non riuscire a parlare in città, me. E quando è forte la propagazione vuol dire che è buona. Più maltempo c'è, è peggio. Bisogna vedere anche quanti watt avevano in certe persone, non credo che fossero tutti con 4 watt. Ma noi dice che gli arrivavamo forte a loro, noi che con 4 watt gli arrivavamo forte a loro. Eia, e anche qualcosa in più ieri, io. Vabbè, io andando con 4 watt. No, Gio Maria. Come? Perché stavo andando con 4 watt io. Ecco che io quando sono andato, non c'ho altro qua io. Sono 4 watt. Il presidente Barri è anche troppo, tanto per quello che vale adesso la frequenza, o no Marco? Ce n'è anche troppo, dai, ce n'è anche troppo. Vabbè, poi mi è rientrato l'omologato, che avevo dato a Natalino, questo non c'è più il santo, poi se non ascolti ho detto inutile. Non ascoltavo nemmeno e quindi cosa? Vabbè. Ne abbiamo perso uno, lui un po' certe volte dice chiamo qualcuno, faccio togliere l'antenna, capito un po'. E io invece per modulare nel 2010, il 2011, appena sono rientrato, facevo carte false, andavo in macchina a modulare a San Francesco, pur di modulare, uscivo quasi tutte le sere con il baracchino in macchina. Un attimo, ma. Eia, capito, Tom? Aspetta un attimo che c'è Marino su PMR. Eia. Eccoci qua, Tore. Maria, aspetta che sto parlando con Marino un attimino. Fai. Marco. Eia, Gio Maria, sono qua. No, dicevo che io uscivo anche in macchina, quando non avevo antenna a casa, uscivo in macchina tutte le sere quasi, pur di parlare alla radio. Ma uno quando esce in macchina si fa magari il percorso lungo, conviene ammetterlo l'apparato in macchina. Io andavo a San Francesco, dove ci sono quei gradini, e parlavo con tutti, anche con Porto Torres. Era bello gira a me. C'era anche più gente quando sono rientrato. Nel 2010 sono rientrato. Io in macchina non ne metterò più. Ho preso il 2000, l'ho preso proprio per mettermelo in macchina, ma ho detto ma che me lo fa fare? Ah, io non ne metto perché io, quando vado a Sassari magari che va a fare qualche vizio così, non ne metto nemmeno. Magari campagna, quando scendo in campagna, ce l'ho in campagna, per cui ma che non ne metterò più, ho fatto male che l'ho preso quell'apparecchio. Magari l'ho preso perché è piccolino e ci sta nel cassonetto, capito? Ma nemmeno io lo metterò perché a meno che non rientri un po' gente. Poi per questa storia è roba lunga, questa cosa devo fare io. Per carità, sarà un disagio, guarda, a seconda di come va mi operano a settembre, capito, mi lasciano sulle spine. Ah, tu non ci credi, oggi mia moglie doveva fare un'ecografia lì al clinico di San Pietro e l'appuntamento era alle 11:30. Beh, lo sa che erano, siamo usciti alle 2:00 più, alle 2:20 mi sembra che siamo usciti da lì. si può immaginare, cazzo, stamattina senza mangiare, buttato lì come un pezzo di salame, cazzo, boh, perché arrivavano quelli urgenti, cazzo, e noi con quei due pazzi lì. Ma ti immagina, alle 4 siamo ricasati oggi. Caspita. Figurati, quella è una cosa anche, ma per me è una cosa più impegnativa. Vabbè, lasciamo stare, dai, spero di farmi almeno un po' di mare, se no mi brucio l'estate così, a fare analisi e boh. Dai, riprendete pure, che io vado bene. Ehi, sta parlando un attimo con Marino, già rientra subito. No, ho finito. Ah, finito. Bene mesa. Beh, già si è fatto sentire Marino. Sì, alla prossima settimana ha detto che piazza tutto quanto, su piazza, e si mette a posto. Oh, ragazzi. Allora, molto indaffarato questo periodo. Infatti, sarà così, sarà, speriamo. Vabbè, meglio che si faccia i doveri su prima. Cazzo, che quello bisogna farle prima di tutto, poi l'apparecchio, quando si può si chiacchiera, quando già sa bene dove, capito? To. Prima ci facciamo i doveri che dobbiamo fare in casa. Prima ci facciamo i doveri e poi piano piano facciamo il resto. Allora. Ah, non ne ha problemi, così che noi ci abbiamo i problemi, sì. Piano piano già ce li risolviamo. Per forza, è obbligato che. Adesso abbiamo una. Dunque, mercoledì che viene, un'altra. Ah, lì penso che sia una cosa più sbrigativa, va. A vedere queste congrese, perché l'esito non ce l'hanno dato, perché c'erano troppi, non lo facevano in tempo, adesso dobbiamo andare a ritirarli e poi a farli vedere a quell'altro, è un casotto, se non mancano mai, non mancano mai, però l'importante è che sia più bene, va. Infatti, è così, credo così. Se la riprenda, signor Marco. Marco, mi sembra che in quel ricco, vero ma? Mi pare di sì. Andava e vabbè, andava a Matteo. Cioè, mi sto guardando, c'ho il computer acceso, mi stavo guardando l'int che è 8.40, com'è, aspetta. Ah, è 4.85, è multicon, quello mi stavo guardando. A di giocare. Vabbè, a comprendere tu. Aromato e geggio, no? E che è questo? Ah, boh. No, non lo massico, Gio Marico, quella cosa lì io. Boh. Non si comprende niente, perché a me arriva un po' di mezzo fracasso. Ma chi io? Da una condotta del Coginas. Il guas è nella condotta del Coginas. E noi non vinteremo nulla col Coginas. Ma perché siete senza acqua? Infatti, e loro stanno dicendo che c'è un'interruzione d'acqua dalla condotta di Coginas. A noi non vinteremo nulla con la condotta di Coginas. Come mai qua c'è? Qua c'era tutto il giorno, non ci siamo accorti di niente nemmeno. E qua manca, qua manca, infatti noi ci abbiamo riempito la vasca da bagno ieri notte perché sapevamo io gli mancava. Quando siamo rientrati non c'era nemmeno ancora, rientrati alle 4 e non c'era acqua. Sì, questa banoia è uno schifo di servizio. Impianti vecchi, tutto vecchio è, tutto vecchio, tubature, tutto. Vabbè, bisogna aver pazienza. Noi non abbiamo autoclave, non abbiamo vasconi perché mio nonno a suo tempo non l'ha preteso il vascone e quindi c'è gente del palazzo che si è fregati due vasconi a testa, capito? Siccome non venivano usati se ne è appropriato e c'è chi ne ha due, c'è chi ne ha uno e noi siamo senza. Peggio purtroppo per mio nonno che non ha voluto utilizzarlo, diciamo, non fare collegamenti. Io sto clave, non ne ho. Infatti quando apro il rubinetto questa risorta a noi, da noi, arriva poco a poco, certe volte, quando è poca l'acqua non arriva quasi niente, però quando riusciamo a sapere che manca cerchiamo di riempire almeno la vasca e almeno per il bagno. E oggi sono un po' così comunque, perché stanotte non ho dormito quasi niente, alle 5 ero sveglio, avrò dormito sì e no 2 ore scarse. Stamattina alle 8 sono dovuto uscire per fare l'ennesimo prelievo, ero anche digiuno, quindi senza dormire e senza mangiare, ed ero in condizioni pietose. Ho riposato appena appena nel pomeriggio, ma no, non mi sento tanto per la quale, ci vorrà una bella dormita stanotte. Infatti vedi che sono un po' con la voce non troppo pimpante. La voce sembra abbastanza a posto, ma vabbè, poi bisogna anche vedere il resto. Dottore, sei a Giammarì? Sì, già è così, sì. Ah, ma Bacchisi oggi non ha gara, no? Nemmeno ieri. Ah, boh, non lo so. Ho indaffarato, non lo so. Oh, Giammarì, Bacchisi è entrato ieri a chiedere un controllo con un baracchino, quando eravamo col pompone sul 23, quando c'era propagazione. Ha chiesto un controllo con un baracchino e ha visto che funzionava. Perché se non funzionava in padre dovesse portarlo a Pomponio. Allora gli ho fatto la battuta, non è portare Cazzanello e un cipito. Qualche cosa già la fa. Ovvero, qualche cosa già fa. L'importante è che non si faccia come ha fatto il mio, però qualche cosa la sa fare. Sai cos'è? Per mettere in mano gli apparecchi ci vogliono un po' apparecchiature alle elettrodomestici, roba elettronica, ci vuole oscilloscopio, non lo so, ci vuole strumentazione, se no a tentativi non va bene, dai. Ognuno sa se qualche cosetta così già sa fare. Certo che ci vuole l'attrezzatura anche, non è che a fare così no, e per cui facciamo perdere. Io quando ho avuto qualche problema ho mandato su e da mi hanno fatto pagare, però almeno è arrivato come si deve, capito? E quello facendo, almeno paghi, ma se lo dai a persone che sanno fare, che non hai più problemi di niente, capito? Io questi ultimi giorni ho passato in rassegna gli apparecchi in scatola, sembra che vada tutto bene, tutto a posto. Però il 3009 non si batte, anche per l'estetica, sai, cromato, stile classico. Però c'è qualcuno che piacciono più quelli col display digitale, no? Come quello lì omologato. Sono migliori, dai. A certo magari meglio quelli di prima, ma questo adesso è un macello, Devi sempre entrare nel menu e fare tutto. Io non ci riesco assolutamente, ho provato. Ma questo qua che non riuscivo nemmeno a metterci i colori, cazzo. Però dopo tanto, perché me l'ha detto già fa come fare, se no non ci era riuscito, perché c'era tutta la sera, si può mangiare, non tocco mai gli apparecchi, raramente. Però ho provato e già mi è riuscito. Chi è che parla? Gio Maria Figaro? Carissima Luigi, buonasera, ben sentita. Almeno ogni tanto ti fai sentire, come va? Ciao a tutti. C'è anche Squalo, se non sbaglio, vero Marco? Sì. Tore Squalo. Tore Squalo, ciao da Liu anche a te. Ok, buonasera, ben sentita. Si è seduta vicino per ascoltare il QSO, mamma. E lì piacerebbe, solo che sai cos'è, siete tutti uomini, sono 23, e lì si sente un po' così, ci vorrebbe un'altra YL, come era, ti ricordi una volta, Fiocco di Neve, no? Sì, Fiocco di Neve, c'era Bettina, c'era... qua al Monte Rosello ce n'erano, mi sembrava bene più, ce n'erano, adesso non mi vengono i nomi nativi, però ce n'erano parecchi, quando ci attaccavano all'apparecchio quel canale era occupato dalle donne, comunque faceva piacere ogni tanto anche sentirle, dai. Certo che magari, essendo magari, non so, 3-4 uomini e mezzo una donna, boh, per me è la stessa cosa come sia un uomo, capito? Perché specialmente quando una persona si comporta bene, penso che faccia piacere anche alla donna a fare queste o no. Sì, sì, lei si comporta bene, no? Come me, ogni tanto scantono, ma per far battute. E tanti anni fa parlava con Rosetta, 30 anni fa parlava con Rosetta, ti ricordi Rosetta in Monforte? Non sappiamo nemmeno se vive ancora, niente ne sai. No, abbiamo perso già tutti i contatti da molti anni. C'era Monforte, c'era Cacciopea, forse a Cacciopea tu non l'hai conosciuta, che dopo erano due sorelle che dopo sono passati in radioamatori e hanno mollato la 27, però ogni tanto entravano e ce n'erano parecchie donne state lì, era pieno di donne. Cassiopea è un bel nome, però non l'abbiamo conosciuta, forse era prima che entrassimo noi. Riprendi, Tore. Sì, aspetta, io l'ho conosciuta soltanto in radio e basta, non l'ho conosciuta di persona. Noi l'abbiamo conosciuta varie volte, siamo incontrati, poi venivano anche all'associazione, allora c'era il Radio Club Nord Sardegna, lì via Lussati, presidente era Giuli, per cui l'associazione andava a gonfie vele e ci incontravamo sempre per riunioni eccetera, per cui li abbiamo conosciuti, tutti li ho conosciuti, tutte. E quando sono entrato io mi sembra che ce n'era una solo, non mi ricordo chi era quella lì, cioè, aspetta se mi ricordo, dunque era un'amica di Cacciopea, era un'amica di Cacciopea che abitava lì, aveva un negozio di abbigliamento di bambini di Agriate Veletta, che non mi ricordo adesso come si chiama. Caspita, noi non siamo entrati prima perché io ero piccolo, a noi il chiribizzo dei portatili ci è venuto quando avevo 13 anni, vabbè, però beato chi si è fatto anche gli anni 70, ha conosciuto la legalizzazione della 27, bello, bello. Poi c'è chi c'era anche prima, negli anni, fine anni 60, mamma mia, quanto tempo, riprenditore. Sì, io sono entrato nel 78, sono entrato, 78 o quasi 79, era, e quindi, quando sono entrato io era già legalizzata la 27. Eia, dice no, prima era guai, era come avere un'arma in casa. Purtroppo l'Italia è uno di quei paesi strani, no? Che pensa che in America mi pare la 27 esisteva già negli anni 50, mi pare l'abbiamo istituita. L'Italia è uno di quei paesi che quando c'è una novità deve essere vietata a tutti i costi, poi casomai la regolarizzano. Vabbè, paese strano l'Italia un po'. Sì, riprendo io, Gianmarì. Ah, a me mi stanno chiamando. Ci sentiamo, ciao Gianmarì, domani, se va bene. Che andare. Ciao Marco, stammi bene. E salutami la signora anche. Ok, ci sentiamo alle prossime. Ciao. Ciao Tore, vedo che sono le 8, caspita, per voi è già ora di cenare, non mi ero reso conto dell'orario, dai, buona cena, buon tutto, buon proseguimento, dai. Oggi, come vedete, si sta bene perché c'è poco querreme, almeno io poco ne ho. Ho messo un filo di squelce, quindi è qua, è muto, e sento solo voi. Ok, ciao a tutti, sentiamo, saluto di casa, a domani se coincide. Buon proseguimento di serata. E infatti, mi sembra che anch'io chiudo, Marco, è arrivata l'ora della pappa, per cui anche noi abbiamo un orario, per cui a quell'ora devi prendere quella pastiglia, oggi che lui è, per carità, ma va bene, l'importante è che ci siamo sentiti ugualmente, dai, anche se poco, già fa piacere, dai. Risaluta di uno, buon proseguimento di serata, Marco, ci sentiamo e grazie per la piccola chiacchierata che fa sempre piacere. Ok Marco, vai, chiudo. E io Giomari, buongiorno, vabbè, adesso per fare una piccola il 5005 ha solo un tasto per avere tutti i menu, no? Adesso sto pensando a quello. Il 9009 è un macello perché i menu sono divisi su tre tasti differenti, parlando di apparecchi così digitali, no? E quindi da una parte trovi alcuni menu, alcune voci di menu, siccome i tasti sono pochi, hanno dovuto usare quel sistema, mentre questo è meccanico e di una semplicità estrema, dai. Ecco perché io lo preferisco, dai. Bene, buonasera, buon tutto, buona mangiata e buona nottata, dai, ci sentiamo domani, ciao ciao ciao. Il 9009 l'avevo fatto, non l'ha sembrato bene a quello lì, grazie. L'ho venduto subito, come l'ho messo su conti subito ce l'hanno preso e mi ho fatto via 3. Ne ho dato, che mi è rimasto il 5005 e cose lì 7009 e quello lì mi è rimasto, il resto è tutto dato, non ne facevo niente ormai, bastano questi e basta, anzi se riesco a trovare a dare anche il 5005 e il 7009 lo do, perché non ne faccio niente, nulla è, sono dentro le scatole e chi li tocca più, boh. E da lì a cosa vendere? A Luca vendere? Almeno realizzi qualcosa, no? Ci sono già, ma non ne compra nessuno. Non ne compra nessuno. I 9009 subito ce l'hanno preso e subito, caspita, nemmeno messo subito, ma abbiamo trovato un inquirente, a Bari è andato a finire, quello aveva 60 watt in banda. Quello è bello, quello mi pare sono 50 o 60 FM, 60 in banda, in AM saranno una trentina modulati. Ma tu forse non ti sei trovato bene proprio perché i menu erano tutti nascosti in tre tasti diversi, è un po' un sistema macchinoso, dai, però è arrivata mia zia, dai, ciao Gio Mari, buona serata, buon tutto. Tanto tutti bene, dai, tanto c'è uno che mi piace, speriamo che non mi faccia la tentazione, sono sempre avanti, è acceso il computer. L'Integra 485, bello quello lì, mi piace da morire, però ma cosa ne faccio niente, ma